وانا نبكي والطبي ويبسم ويغيب لي دمعي ولا تظهر. Sono i Kermes con Zoroastrian, Zoroastriano, una traccia che ci permette di introdurre perfettamente l'argomento della puntata di oggi. Quella che state ascoltando è L'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale. Andiamo in onda a mezzogiorno, un mercoledì ogni due, ci potete ascoltare dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure quando vi pare in differita dal sito ondarossa.info, dove trovate anche le vecchie puntate di questa trasmissione. In teoria andiamo in onda un mercoledì ogni due, se non che ogni tanto mi salto una puntata. Questo è stato il caso, perché ero impegnata in quella che mi piace chiamare la ricerca sul campo per la puntata di oggi, nel senso che sono stata impegnata con le celebrazioni relative alla festa di cui vi parlerò oggi, e quindi non sono riuscita a registrare l'argomento di cui vi avrei voluto parlare oggi. Come sicuramente saprete, avrete indovinato, il 21 di marzo è una festa importante all'interno del calendario delle popolazioni di lingua della famiglia turca e delle lingue, no, imparentate con il persiano, ed è la festa dell'inizio dell'anno nuovo, quindi la festa di primavera, in cui tradizionalmente la religione zoroastriana vede l'inizio dell'anno. Questa è la festa del Nauriz. Nauriz è la pronuncia che viene data da parte in kazako, le lingue appunto di quest'area del mondo, ma in italiano la conoscerete nella versione invece che ha popolarizzato la comunità curda. Mentre ne stavo parlando adesso mi sono resa conto che ho sempre visto il termine scritto e non l'ho mai sentito pronunciare, quindi non so come si dica in curdo, penso si dica Nauruz, però potrei sbagliarmi, non me ne vorranno le compagne curde. Come dicevo, comunque questa è una festa che è comune. Tra tantissime popolazioni di questa parte del mondo, andando dalla Turchia per prendere poi appunto il Kurdistan, una parte della zona dell'Iraq, l'Iran, fino a poi ad arrivare in Afghanistan, prendere tutti i paesi dell'Asia centrale, l'Azerbaigian, una parte della Georgia, le repubbliche di cultura e lingua turca che ci sono. Nella zona sud, diciamo, della Russia, quindi la zona di Tuva, l'Altai, fino poi ad arrivare a una parte della Mongolia dove si trovano una parte di popolazione che parla kazako, che è stanziata lì, la zona della Cina, la zona dello Xinjiang, dove vivono sia gli uiguri sia le popolazioni kazake stanziate in Cina. Quindi una festa che ha un'espansione territoriale grandissima una tradizione anche storica molto, molto lunga, perché si pensa che questa sia una delle celebrazioni più antiche del mondo. E la festa del Nauruz storicamente viene fatta risalire al VI secolo avanti Cristo, è uno dei giorni più sacri nella religione zoroastriana. La religione zoroastriana ha come teologia una visione del mondo che è divisa in due, c'è il bene rappresentato da uno spirito di luce positivo che è Ahura Mazda, e poi il male che viene combattuto appunto da questo spirito positivo. La religione zoroastriana ha una visione già teleologica del rapporto di queste due entità, nel senso che all'interno della teologia, del dogma zoroastriano, la fine dei tempi è il momento in cui Ahura Mazda trionferà, per cui diciamo c'è questa visione del fatto che comunque l'umanità sta progredendo verso un punto d'arrivo che è positivo, la vittoria di Ahura Mazda. Questa visione della battaglia tra lo spirito appunto della luce del fuoco e invece lo spirito dell'oscurità viene diciamo rappresentata su scala minore all'interno del ciclo delle stagioni, per cui si pensa che durante l'inverno lo spirito della luce venga imprigionato dallo spirito dell'inverno, osservato nel mondo naturale dal fatto che le notti diventano più lunghe. Il 21 di marzo finalmente lo spirito della luce riesce a liberarsi e riporta la primavera sulla terra, e quindi non vi sarà sicuramente sfuggito che il 21 marzo, il giorno appunto del Nauruz, è un equinozio, per cui il momento in cui il dì e la notte hanno la stessa durata. Originariamente la festa del Nauruz prevedeva anche una serie di rituali diciamo di purificazione, di saluto all'anno che arriva, che coinvolgevano l'uso del fuoco come elemento appunto rinnovatore. Questo tipo di rituale c'è ancora in parti del mondo di lingua e cultura indo-iraniana, persiana, però non è veramente presente invece all'interno delle parti del mondo che lo festeggia, che invece parlano lingue della famiglia del turco. E quindi chissà se c'è una correlazione con la cultura indo-europea. Quando ho letto di alcuni di questi rituali storici mi è venuto in mente che effettivamente per noi italiani l'idea che, no, che ci siano dei rituali di saluto dell'anno nuovo, o comunque che marchino alcuni momenti dell'anno che dovrebbero essere i momenti di inizio di nuovi cicli fatti col fuoco, non è strano questa tradizione dei falò c'è in tantissime città d'Italia e poi si è mescolata no, con un'iconografia cattolica, cristiana, che ha portato comunque anche tutto, no, il Pantheon dei Santi a inserirsi su quelle che erano originariamente delle tradizioni chiaramente pre-cristiane. Però questo tipo di rituale invece è completamente assente dal panorama kazako, uzbeko, kirghizo delle celebrazioni del Nowruz, e quindi chissà se no, la presenza del fuoco è una caratteristica comune indoeuropea, una di queste caratteristiche che ci è rimasta a distanza di secoli, o se invece ci sono altre motivazioni più recenti per cui le popolazioni, no, dell'Asia centrale sono state staccate magari dalle celebrazioni di tipo tradizionale. Nella zona dell'Asia centrale, il Nowruz non è sempre stato celebrato nell'ultimo secolo. Nel 1926 si smette di celebrarlo, ovviamente sotto il governo dell'Unione Sovietica, per cui viene fermato anche in Georgia e Azerbaigian, che sono altre due zone dove, e nella Repubblica del Dagestan, altra zona dove veniva celebrato, e si riprende più o meno a festeggiarlo negli anni 80. Se non sbaglio, in Kazakistan nell'88 ricominciano i festeggiamenti ufficiali, e poi dopo la caduta dell'Unione Sovietica nelle varie ex repubbliche è una festa che viene ripresa, in parte perché comunque ha una tradizione millenaria, la gente, anche se non poteva festeggiarlo, lo ha sempre più o meno osservato in maniera informale, e in parte anche perché comunque è una festa che, diciamo, si prestava anche a essere utilizzata come momento per ricostruire un'identità di tipo nazionale, recuperare tutta una serie di tradizioni che si erano andate a perdere. La repressione della celebrazione del Nowruz non è un fenomeno che interessa solamente l'Asia centrale, sono sicura che, anzi, questo è un argomento di cui probabilmente molta gente all'ascolto è più ferrata di me in materia, perché è un avvenimento nella vita delle comunità curde, soprattutto nel caso della Turchia e dell'Iraq, in cui storicamente le celebrazioni del Nowruz diventano un momento in cui i due stati intervengono in pubblico e le utilizzano come scusa per arrestare e spesso anche in realtà compiere atti di violenza contro la popolazione, utilizzandole a pretesto, diciamo, sostenendo che vengano utilizzate per fare propaganda di tipo politico. Attorno poi al Nowruz come, diciamo, cioè, momento del calendario, no? Del popolo curdo, che ha un valore particolare, si è costruito anche un vero e proprio movimento politico, perché durante gli anni Ottanta in Turchia ci sono state delle battaglie per poter essere in grado di festeggiare questa ricorrenza. Ci sono stati degli episodi particolarmente sanguinosi di repressione nei confronti delle popolazioni curde attuate nel 91 e poi nel 92 in Turchia durante le celebrazioni del Nowruz. E quindi poi, no, la capacità di celebrare questa ricorrenza è diventata anche un simbolo della resistenza curda e della capacità di mantenere la propria specificità culturale nel in un contesto altamente repressivo. Per noi all'Orda d'Oro invece il Nauriz è un'occasione per celebrare questa diversità culturale dell'Asia centrale e delle zone che le stanno attorno, e quindi prendiamo la giornata di oggi, la puntata di oggi, come una scusa per ascoltare tanta bella musica e iniziamo subito con una canzone tradizionale curda per il Nauriz in una versione remixata di Beto Beats, e poi andiamo a sentire invece una canzone afghana sempre per il Nauriz di Angama e Wahid Kasemi, che è un cantante afghano che si occupa di musica tradizionale, e quindi queste sono le prime due canzoni dedicate al Nauriz dal Kurdistan e dall'Afghanistan. Çi kurmanç, çi zazan, çi soran, çi koran Hem tevahi kırdın, zumane merkur diye Ezari silatikim, geçnane umuz deli ve hemiyan piroz be هم گیده هنده هنده اگر بخنده لب باز کنی همراه تو نبض آسمان میخندد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. جشن سمنک شیره مهراین است، در سفره تان سعادت حفصین است. گنگینه دل را به من تشن بیار، محبت چقدر شیرین است. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد. آینه و شم و شربت شانی و کالا دوزی، گر چشمه چشم تشنه من نشوی در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، se le festività del Nowruz hanno delle caratteristiche particolari in ogni paese, però ci sono anche dei tratti comuni. Uno di questi è l'associazione con la tradizione delle pulizie di primavera, per cui è costume dare l'avvio alle festività del Nowruz con diciamo non solamente la pulizia della casa, però anche con la cernita di quelli che sono gli oggetti che non vogliamo più tenere o che magari si sono rotti in maniera da non poter più essere riparati e quindi devono essere sostituiti o buttati. Un altro grande tema è quello della visita alla famiglia e agli amici, per cui è comune che durante le giornate si tengano insomma le porte di casa aperte e che si vada a far visita. L'idea è poi che il cibo deve essere sempre pronto per chi arriva a trovarvi e quindi che la tavola del Nowruz debba sempre essere imbandita per i potenziali ospiti. L'idea è che i giovani vanno a trovare i parenti più anziani e poi negli anni più contemporanei questa occasione è diventata anche un'occasione per festeggiare con delle feste molto grandi, perché parenti che appunto vivono più lontano tendono a tornare a casa per questa occasione, quindi è proprio il momento dell'incontro con le famiglie. In Kazakistan questo è un momento di incontro con le famiglie che è più importante del Natale per la comunità non ortodossa, quindi anche se tradizionalmente il calendario per esempio delle istituzioni, delle università, delle scuole pubbliche segue un calendario europeo, per cui la pausa più lunga la riceviamo, no? nel momento del Natale, in realtà il momento in cui la gente viaggia per tornare a casa è questo. ad Astana c'è questa decisione poi particolare, in realtà una decisione dovuta al clima, del fatto che il Nowruz si festeggia, sì, ovviamente il 21 di marzo, però le celebrazioni vengono di solito posposte ad aprile, e quest'anno si sono fatte il 31 di marzo in alcune aree della zona, e probabilmente ce ne saranno anche andando ad aprile, e la motivazione è che solitamente si fanno queste grandi celebrazioni con musica tradizionale, canti, danze, e appunto persone che vestono i loro abiti tradizionali, e ad Astana non sarebbe possibile farlo il 21 marzo perché la temperatura è ancora sotto lo zero, ampiamente sotto lo zero, e quindi c'è questa tradizione che Astana celebra il Nowruz più di una volta l'anno, in una decisione che un collega afghano ha definito è come mettere l'enne dopo che ti sei sposata, che è un modo di dire afghano per dire che fai le cose fuori dal momento in cui dovresti, che mi piace tantissimo, per cui penso che lo inizierò ad utilizzare. Tra le tradizioni invece più specifiche di ogni paese troviamo nella zona di Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan e anche una parte dell'Iran la preparazione del Sumalak o Sumanu, insomma chiamato con nomi ovviamente diversi in ognuno di questi paesi, ma radice comune. Questa è una specie di crema che viene preparata dal grano, grano che ha germogliato che è stato lasciato a mollo per una settimana per essere appunto ammorbidito. Dopodiché la sera prima del Nowruz le donne soltanto, questo è un momento riservato in queste culture alla socializzazione femminile, si ritrovano all'aperto attorno ad un gran calderone in cui per tutta la notte fanno bollire, sobbollire questo grano fino a quando si scompone, diventa questa pasta, questa crema, che è molto dolce. E viene poi servita per il Nowruz. È un processo di preparazione lunghissimo che però viene accompagnato anche da tutta una serie di canzoni rituali, per cui ci si scambiano appunto canzoni che le donne conoscono, è un momento di socializzazione dove c'è anche, no, un momento di non soltanto socializzazione cioè femminile, però anche attraverso diverse generazioni, per cui c'è un passaggio, no, di conoscenza, di cultura, di consigli da parte delle donne più anziane a quelle più giovani. In Iran questo dolce è un dolce che viene preparato anche per altri momenti dell'anno, invece in Uzbekistan e Tagikistan è una tradizione che è un pochino più ristretta al momento del Nowruz. E quindi vi potrebbe capitare di non riuscire a incontrarlo facilmente se viaggiate in Uzbekistan al di fuori di questo periodo dell'anno. Io ho avuto la fortuna nel 2023 di capitare a Bukhara la notte prima del Nowruz, e quindi di riuscire ad assistere a questo momento di preparazione del Sumalak, devo dire, un momento molto bello. Il Sumalak è associato poi a un'altra tradizione, questa sempre tipica della zona che diciamo più del sud dell'Asia centrale, non fa parte per esempio della tradizione kazaka, che è quella della preparazione della tavola. C'è una maniera di preparare la tavola per il per il Nauriz, questa tavola, questo rituale viene chiamato con il nome di Aftsin e consiste nell'arrangiamento di 7 oggetti che iniziano con la lettera S in persiano, che rappresentano i 4 elementi di fuoco, terra, aria, acqua e poi le 3 forme di vita, gli umani, gli animali e le piante. Questi 7 oggetti che preparano all'arrivo dell'anno nuovo sono il sumac, che è una bacca, l'aglio, le mele, l'aceto, l'oliva, il sumalak, che è questa crema di cui vi ho parlato, e poi il sabze. Sabze è il nome di questa varietà di lenticchie che crescono in ciuffettini d'erba, ve li vendono con un bel fiocchetto attorno in Tagikistan, li potete comprare dal fioraio per appunto metterli sulla tavola del Nauriz. Questa tradizione del numero 7 associato al Nauriz rimane in altri paesi. L'Afghanistan, per esempio, prepara la tavola del Nauriz mettendo 7 varietà diverse di frutta secca sulla sua tavola, mentre invece l'Azerbaigian ha una serie di altri oggetti, sempre con queste lenticchie che stanno germinando insieme a delle uova. Hanno sempre il numero 7, nel senso che devono essere presentati almeno 7 portate differenti nella tavola del Nauriz, però non associate a invece oggetti specifici. E poi invece questa preparazione della tavola con il numero specifico di oggetti manca nella tradizione culturale kazaka, che però mantiene il numero 7 nella zuppa del Nauriz, la Nauriz Kozhe, che è una zuppa che minimamente contiene la carne di cavallo affumicata, dell'orzo e poi del latte. Questi sono i 3 elementi su cui tutte le famiglie kazaka a cui chiedete sono d'accordo, dopodiché sugli altri 4 ingredienti della Nauriz Kozhe si aprono delle lotte abbastanza furibonde, tra chi considera l'acqua per fare il brodo come un elemento a parte, chi invece non lo considera ma ci mette il sale, chi ci aggiunge il kurt e quindi non conta l'acqua. L'importante comunque è che venga mantenuta, diciamo, questa idea del numero 7, che è appunto associato alla buona sorte per l'inizio dell'anno. E mi fermo per un'altra pausa musicale. Questa è una canzone kazaka per il Nauriz di una cantante di epoca sovietica molto famosa, Rosa Rimbaeva. Questa è una canzone che recentemente, devo dire, è tornata a essere molto, molto amata, e quindi se passate in Kazakistan in questo periodo dell'anno sicuramente la sentirete suonare. Quindi questa è Rosa Rimbaeva con Nauriz. Now rest, E un ultimo punto di interesse sul Nauriz. No, ci sarebbero tantissimi punti di interesse, però volevo dedicare la puntata di oggi a lasciarvi ascoltare più, lasciarvi scoprire, diciamo, più canzoni dell'area, che non invece a darvi informazioni enciclopediche su questa festa. Però vi ho detto precedentemente che la festa viene festeggiata il 21 di marzo, in realtà semplificando di molto la questione, perché il Nauriz si celebra nel momento in cui c'è l'equinozio perfetto, e quindi ogni anno ci sono degli aggiustamenti da fare, potrebbe cambiare il momento dell'anno in cui si festeggia, e però cade tra il 19 marzo e il 21. Quest'anno il momento in cui il sole ha oltrepassato l'equatore celeste è stato alle 9.01 del mattino sul tempo del meridiano di Greenwich, del appunto 20 marzo 9.01 del mattino, però diciamo non tutti i paesi seguono con precisione cioè il momento in cui accade. Ci sono paesi come per esempio il Kazakistan che hanno invece standardizzato il momento della festa, per cui le celebrazioni del Nauriz vanno dal 21 al 25 di marzo, e questo è più o meno lo standard qui. Quest'anno se poi c'è stata l'occasione anche di farlo coincidere con il momento del Ramadan, col mese del Ramadan, questo è un avvenimento che potrebbe causare tensioni in alcuni paesi. Storicamente la relazione tra l'Islam e lo zoroastrismo non è stata particolarmente positiva. C'è stata una grandissima persecuzione dei fedeli dello zoroastrismo nella zona appunto dell'Iran e dell'Afghanistan in particolare, dove si concentrava la maggior parte dei fedeli, però ci sono invece paesi dove questa festa non è più così fortemente, no, associata alla religione. Questo è per esempio il caso del Kazakistan, dove lo zoroastrismo non è presente, o comunque se lo è in numeri veramente molto, molto piccoli. Comunque già la quantità di fedeli zoroastriani al mondo non è altissima, perché stiamo parlando penso di 150.000 persone, per cui una comunità molto piccola, però appunto nei paesi perlomeno dell'ex Asia centrale sovietica la convivenza, diciamo, tra questa festa e l'Islam non viene vissuta come un punto di contenzioso, però sappiate che invece esiste, no, una grande area di discussione sulla possibilità per i fedeli musulmani di festeggiare questa festa, e che non tutti i fedeli musulmani condividono l'idea invece che, no, che questa festa vada mantenuta, e quindi questo è un momento in cui si possono identificare delle tensioni tra quella che è la, appunto, il portato religioso, no, i dettami che la religione ha in questa parte del mondo, e quello che invece è la cultura e la tradizione della zona. Questo perlomeno è la maniera in cui, no, si fa una copertura mediatica della discussione di questi temi. Comunque, diciamo, pensare, no, trattare l'Islam come un fenomeno che si è innestato in un secondo momento in questa zona del mondo mi pare comunque una decisione interessante, perché sì, se è vero che l'Islam è arrivato dopo lo zoroastrismo in Asia centrale e in Iran, sicuramente è vero, però comunque stiamo parlando di almeno confortevolmente 10 secoli fa, per cui, diciamo, tempo per cui questa religione sia entrata ampiamente nella produzione culturale della zona c'è stata, e a tutti gli effetti ne fa parte, quindi non Non so, non sono convinta di questa lettura antitetica tra la religione islamica come qualcosa che non è parte, no, del portato culturale della regione, però invece sappiamo che la storia, diciamo, non necessariamente deve essere interpretata in maniera realistica e accurata per poter fare invece delle costruzioni, no, di tipo nazionalista. Quindi questo è quello che un po' succede a volte anche con la festa del Nowruz, che viene appunto reinterpretata come un momento in cui, no, come un momento, scusate, però come un contenitore in cui appunto far convergere diverse esperienze di quelle che è appunto la costruzione di identità delle locali, delle comunità. Va bene, quindi chiudo qui il contributo italiano al Nowruz, che è proprio una canzone che prima di tutto è proprio ormai un meme culturale, e poi anche responsabile per aver aumentato il numero di esperti in lingua e cultura iraniana che abbiamo in Italia, perché ha ispirato gente a iscriversi alla laurea in questione. Nel 2008 c'è un musicista, Celestino Camicia, che scopre questa canzone di un cantante iraniano famoso, Sharabieh, che si chiama Paria, la canzone, e perché l'iraniano è una lingua con una struttura sillabica molto simile a quella italiana, sembra che quando il cantante sta cantando dica parole in italiano invece che in iraniano. Quindi Celestino produce una versione sottotitolata con quelle che lui pensa sia il testo in italiano, che è un testo ovviamente che fa molto ridere perché non vuol dire molto. E la canzone diventa famosissima, il video gira tantissimo, fino a quando poi viene riregistrata in versione metal da Ina No War of Steel. A quel punto in Iran ci si inizia a rendere conto che per qualche motivo l'8 di gennaio questa canzone famosa iraniana viene cantata in Italia, e non c'è veramente un motivo per cui sia associata, no, all'8 di gennaio, se non per il fatto che in italiano i versi sembrano dire "Lascia entrare Ascani" o "L'8 di gennaio". Quindi gli iraniani sono incuriositi da questo fatto che in particolare la canzone venga cantata in questa data. Quest'anno si chiude il cerchio perché l'autore della canzone, Shahram Shapparieh, conduce il concerto del Nowruz di BBC Persia, e invita Celestino Camicia e il cantante dei Nano War of Steel, Valerio, a no, scusate, non so il cognome, però a cantare la canzone sul palco assieme a lui. E quindi chiudiamo con appunto il contributo italiano al Nowruz, che è Ascanio l'8 di gennaio, però nella performance di Celestino Camicia, Valerio dei Nanowar e Sharam Shapparieh. Io con oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un saluto a tutte, e in particolare a chi di voi ci ascoltate privata della propria libertà personale. Ciao ciao! 1, 2, 3, 4! Hey, io la lascio il bimbo volare. بشه منو